Radio 24 presenta Il Sabato del Villaggio. Liberi consigli per il fine settimana. Buongiorno, buongiorno, ci siamo con il sabato pomeriggio di Radio 24, il sabato del villaggio, il nostro villaggio globale. Questa è la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, in tutte le nuove tendenze in fatto di musica, TV, serie TV, cinema, ma anche consumi, tecnologia, libri, i nostri liberi consigli per il fine settimana. Nella terza ora, dalle 17 alle 18, il consueto appuntamento poi con RadioTube insieme a Daniele Bellasio, sempre in diretta per tutta l'attualità della rete e dalla rete. Come contattarci? Molto semplice, il numero per i vostri SMS e WhatsApp 349-238-6666 349-238-6666. C'è il mio account di Twitter @MartaCagnola, c'è l'hashtag cancelletto ISDV, come le iniziali del sabato del villaggio. Ma ora scopriamo insieme i temi della prima ora che passeremo insieme: l'appuntamento con il gastronauta, la tendenza è il vermouth, e poi alla scoperta di un altro itinerario. Con Enrico Pagliari torniamo a parlare di sicurezza, ma a tenerci compagnia questo pomeriggio, preparatevi, la comicità, l'umorismo, la commedia, il divertimento. Io, ad esempio, amo questi splendidi uomini. Se mi guardi con quel sguardo dentro agli occhi, io ti sfido a innamorare. Conduttore radiofonico entra dopo il ritornello. Ma come si fa qua con Elio e le storie tese che non hanno fatto un ritornello, ma hanno fatto solo... Devi aspettare che finisce la canzone. No, ne abbiamo fatti sette ritornelli, perché così il bravo conduttore radiofonico ha più opportunità per entrare e parlare sulla canzone. Ma scusami, le sapete tutte. Certo. Se ti facevamo un pezzo di 7 introduzioni o 10 introduzioni, era un pacco incredibile, non potevi dire mai niente. Ce li abbiamo, allora, i 7 ritornelli, che sono 7 andarelli. Brava. Perché non ritornano mai. Brava. Ho studiato, eh. Sei fuori. Poi in realtà forse sono 8. Però in ogni caso, insomma, diciamo che è stata una bellissima sfida della quale non ci pentiamo assolutamente. Sapevamo fin dall'inizio che sarebbe stata una sfida impossibile, perché cantare una canzone che dice vincere l'odio in un mondo in cui l'odio sta trionfando era una battaglia persa in partenza. Sì. Per cui sì, non vogliamo... noi siamo orgogliosi, ma non vogliamo perdente. Indossare nessuna perdente. Scusa, come dice, Deborah Jurato. Esatto. Come dice Deborah Jurato. Non poi non siete arrivati ultimi, quindi mi avete che sarebbe stato deluso. Forse meglio. Sì, sì, non siamo stati neanche eliminati e ripescati. Insomma, un vero fallimento. Un fallimento totale. Però noi ambivamo. Scusate, mi presento. Sono Lorenzo Fragola. Ciao, Rory. Ma scusa, ma non è riuscito dal gruppo Rocco Tanica? No, sono infatti Lorenzo Fragola. Ah, Lorenzo Fragola, okay. È entrato al posto di... il ventenne più vecchio del mondo. Lo studio arrivano gli scienziati dall'Australia. Aspetta, perché è in gara con Gabbani. Ragazzi, però voi non dovete... bellissimi rapporti con i vostri colleghi di Sanremo, mi pare di arguire. Da sempre. Certo, bellissimi. Sempre. Beh, in ogni caso, per chiudere, dopo passiamo al nostro nuovo album, che è una bomba. Che è una speriamo figata. Che non ci esploda nel culo. Brava. E voglio dire... citazione. Che in realtà non è, se vogliamo proprio andare a guardare il pelo, non è stato un fallimento quest'anno. Gli errori sono stati fatti le volte scorse, perché noi non siamo mai andati lì per arrivare fra i primi. Esatto. Per cui in realtà gli errori erano stati fatti prima. Tutti cercano di salire sul carro del dodicesimo. No, però che diciamo, è già belli, pieno, è niente, già pieno. Purtroppo non c'è è posto. È nostro. Poi avete battuto Valerio Scanu, che è arrivato 13°, quindi alla fine. Ma nella musica non c'è gara. Anzi, Valerio è un amico. Se vogliamo trovare un difetto al Festival di Sanremo, alla kermesse, è proprio questo concepire l'evento come una gara. La musica non è competizione. Tu canti la tua canzone, io canto la mia canzone, a te piace la mia canzone, a un altro piace la canzone. Senti, scusa, abbiamo fatto 30, facciamo 31. Vi riveliamo come si fa la classifica del Festival, perché tutti dicono televoto, poi quella sera 30% della giuria di qua, tutte balle. C'è Carlo Conti dietro alle quinte che estrae a sorte. Ci sono i numeri, c'è un numero collegato a ogni cantante, ma i cantanti sanno tutto e ci stanno. Per la cronaca, nel caso particolare dell'estrazione dalla, diciamo, dall'urna, come si chiama urna, anche quella lì, no? Sì. Insomma, quella che è ruotante, con i numerini, con i vari cantanti che partecipano, non si tratta tanto della dea bendata, ma della dea bondata. Esatto. Perché è un altro tipo di dea. Esatto. Figatta de Blanc. Sì. Io mostrerei con 2G. Mostrerei alla radio la copertina. Figatta. Quanto ci avete messo a trovare il titolo? Mezzo minuto. Vuoi sapere l'evoluzione che già è stata rivelata? Quindi non è. Io c'ero. E allora ricordalo tu. Sai che non me la ricordo. Ah! Non eri attenta. No, e poi vi spiego perché. Allora, stavi già provando il gadget. Sì. Cercavamo il titolo che in genere magari viene gestato, possiamo dirlo, per Fantastico. Lungo tempo e poi viene buttato via negli ultimi 10 minuti e se ne trova un altro. E arrivò Elio che con il candore dei 20 anni del suo cuore ha proposto chiamiamolo merda. E allora, che era carino. Ti ricordi? Vabbè, è cavoli, un tema è un molto caro. È un po' forte. E allora diciamo che poi abbiamo rilanciato su, vabbè, allora facciamo figa. A questo punto figata. Sì, poi c'era l'album bianco, quindi qualcuno ha detto De Blanc. Sì, ma poi c'era anche, siccome c'è tra le varie... Bravo. Figata De Blanc. C'era in lizza anche l'album arancione, che era una bella copertina. Faceva molto ridere. Infatti, o l'album giallo, che comunque giallo. Esatto. Nel disco peraltro avete sperimentato, e in particolare Elio ha sperimentato per la prima volta, e noi l'abbiamo scoperta così appunto al festival con l'accento sulla di Sanremo, la tecnica Acapulco. Sì, è una tecnica che studio da circa 30 anni, mi sono accorto lì al festival che in realtà la usano o tentano di usarla anche altri colleghi, ma non lo dicono, no. Certo. Tipo Deborah Jurato, non so se ci avete fatto caso, quando canta che continuamente guarda dall'altra parte mentre fa un acuto, fa Ma no, quello no. È dovuto a un problema che ha lei, lo so io. Quando canta le note altissime, le si tira di più una corda vocale che... e quindi automaticamente la obbliga a girare. Ma io sapevo tipo che... un crampo. Quindi è un Acapulco involontario. Involontario. Ma io sapevo che lei quando canta a note altissime ha difficoltà essendo alta 1,20. E questa taglia. Questa taglia. Questa è una buona parola. È una falsità. La tecnica Acapulco ce l'hai anche tu su questi microfoni. Certo. E io la sto usando in natura, cioè senza artifici. Artifici. Esatto, artificiali come la gomma piuma. Troppo facile. Vuoi dire, scusami, la gomma piuma? Esatto. Ho usato la tecnica Acapulco per non far sparare le Sì, perché la tecnica Acapulco nasce da quello. Non è solo quello, siamo giusti. Nasce 30 anni che lo vedo soffrire ore e ore al giorno chiuso in una stanzetta per finalmente maneggiare con disinvoltura questa tecnica. Perché non hai mai sentito il disco di Pippi Ripette Nusa? Pippi Ripette Pam, perché è impossibile incidere. Esatto, vedi. Cioè il grande cantante Acapulco ti fa sentire in iri e usa in iri e a. Ma parliamo subito della confezione del certo. disco, perché cioè, la confezione del disco è come quella di tutti gli altri dischi, gialla, diciamo, si apre in tre, digipack. In realtà sì. Un digipack, c'è dentro un disco che tra l'altro è giallo, quindi è in tinta perfetta, dentro ci sono delle cose scritte, esatto. Non riesco a leggere, diciamo, non ci vedo più. Spendiamo anche due parole sul digipack, il digipack che finalmente, anche in un mondo di CD che diciamo si vendono sempre meno, è riuscito a scalzare quella schifezza della copertina di plastica del CD che appena ti cade una volta si rompe subito, che è stata pensata da un cretinetto, o da uno che lo teneva in mano costantemente, o che viveva in un mondo di materassi con di gomma piuma che non gli si rompevano mai. Ricordiamo poi che il digipack a sua volta sostituisce il tetrapack. Una volta c'erano, mi ricordo ai tempi miei, i CD liquidi, dovevi farli agglomerare, in frigo, però li buttavi nella plastica, oppure attenzione. Facevi la pastella, quella tipo la crepe, una crepe facevi, lo mettevi sul giradischi, però certo. Non erano tutti uguali, c'era quello un pochino più così, quello che suonava un po' però fuori vendere il CD e poi alla fine. Va bene, poi c'è una confezione invece extra lusso che è molto più grande, diciamo grande circa come cosa, come un cofanetto di Elio e le storie tese, però io ce l'ho in libreria, solo il disco. disco di... sì, grande come un libro grande. Sì, sì. Esatto. Come un libro. Ce l'ho io, come un libro di Stephen King quando ha detto che non avrebbe più scritto. Esatto. E quindi anziché 1200 pagine erano solo 800. Sì, sì. Un libro di 800 pagine che invece è una scatola che se la nera, elegantissima, con una scritta oro, che dice Lelo e le storie tese. Qualcuno allora, potrebbe dire, ma cos'è, un errore di stampa? No. All'interno di questa scatola, che non è facile, ma non l'abbiamo fatta noi. Certo, perché l'ha fatta il piacere non è facile da raggiungere. Il piacere non è facile. Uno deve raggiungerlo proprio se vuole. Volerlo e mentre un altro pensi. Ma veramente voglio aprirlo? Sì, voglio aprirlo. E dentro c'è il CD di Elio Stretese e a lato c'è un elegantissimo... massaggiatore. Voleva fare un indovinello. Prego. Allora facciamolo dal... allora qui tagliamo. Ripeti, c'è un elegantissimo. C'è un elegantissimo. Aspetta a dirlo. Proviamo ad ascoltare il suono. Un gatto. No, sembra un gatto. Potrebbe sembrare un gatto che fa le fusa, ma le fusa un po' c'entrano. Perché poi fa più fusa. Questo è più fusa di prima. Vabbè. Insomma, diciamo, gli Elio e le storie tese che da anni, forse da sempre, sono attenti al piacere di lei. Sì. Chi ha avuto la fortuna di avere a che fare con i componenti degli Elio e le storie tese in situazioni intime sa che sto dicendo la verità. Bravo. Chi non ha avuto la fortuna, dico, cosa aspetta? Da fidatevi. È una garanzia. Diciamo, arrivi prima a goderti il disco. Esatto. Eh. Se metti di Purple non smetti mai. Metti i Necro Death esplode il libro massaggiatore. Vabbè, voglio sapere qualcosa delle collaborazioni. Questo disco mi ha molto commosso, quella sulle con Francesco. Giacomo. Mi spiace, ma non saprai niente. No, dai, non fare così. Non vogliamo parlarne delle collaborazioni. Dai, sono molto delusa adesso. Possiamo fare qualche eccezione? Dai, fate voi. Dai, capo. Stiamo svendendo, ragazzi. Ma non parliamo delle collaborazioni. Però lo facciamo per lei, perché se lo merita. Dai, ditemi qualcosa. Va bene, se lo merita. Allora, nel disco degli Elio e le storie tese, come in tutti i dischi degli Elio e le storie tese, ci sono degli ospiti. Basta. No. Tu, ho sentito che tu hai accennato pochi istanti fa al brano... cantato, alla bomba intelligente. Esatto, cantato, composto da Francesco Di Giacomo. Ci è stata regalata la sua voce dopo che avevamo avuto piacere di chiacchierare insieme a lui in occasione del 1° maggio, quello dove Vittorio Cosma, che tra l'altro impazza nel disco, nel nostro disco, aveva gestito l'orchestra per l'orchestra Progressive. Un ricordo molto bello di quel 1° maggio è quando alla fine l'orchestra suonava, l'hanno sfumata perché bisognava andare al telegiornale. Progressivamente l'hanno perché sapete, era un momento di musica. Due ore di Taranta, la musica bella se ne va. Comunque, a parte questo, Francesco Di Giacomo in quell'occasione aveva chiacchierato con noi, ci eravamo scambiati vicendevoli apprezzamenti e complimenti. Poco tempo dopo è successo quello che è successo. È mancato per un incidente. E tempo ancora dopo, ma non troppo, un nostro caro amico, che è un nostro fan storico, ci ha detto: guardate, io ho parlato con la moglie di Francesco e un suo caro amico, e c'è una canzone bellissima di cui si potrebbe avere solo la voce di Francesco e realizzarla, e così noi abbiamo umilmente tentato di fare. E l'amico è Paolo Sentinelli, che è il compositore della musica e che ha fatto l'arrangiamento di pianoforte originale sul quale noi abbiamo vestito la canzone e architettato. Ci tenevo a dire un'ultima cosa sul 1° maggio, perché prima Faso l'ha citato. Vorrei citare, perché vorrei insomma essere ricordato nei libri come quello che ha trovato la legge fondamentale del 1° maggio. Sì. Non è concerto del 1° maggio, quindi attenzione, perché ci sono molte reti che fanno un concerto del 1° maggio finto, allestendo una piazza che sembra piazza San Giovanni ma non lo è, eccetera eccetera. Lo fanno magari a Mini Italia, cioè Italia in miniatura, quelle robe lì. E non è 1° maggio se entro il 5° minuto non è stata pronunciata la parola Salento. O se non parte, cioè la taranta deve partire. Sì, la taranta e la pizzica devono partire. Ma libertà e lavoro per tutti. La libertà e lavoro per tutti, che per carità, ma specialmente Salento. Quindi la bandiera dei quattro mori non fa testo. Sì che fa testo. Certo che fa testo, c'è sempre quello che viene da Cagliari. E poi, no, per dirla tutta, secondo me c'è anche un altro elemento, che c'è sempre

c'è la piaga dei bulli che bullizzano e girano un filmino come i fratelli Lumiere, che erano dei bulli francesi, non gli bastavano le foto e hanno inventato il filmino. Il bullo è il figlio del tamarro che picchiava pure me. Il bullo è un giovane moderno molto problematico. Il bullo è presente in ogni antica civiltà, ad esempio i Camuni che furono i bulli dell'antichità. I Camuni che furono i bulli dell'antichità, di telefonini parla tanto anche Elio, le storie tese, questa è Il mistero dei bulli, sempre da Figatta del Blanc, e mi sono divertita veramente tanto con questo disco e con Elio, le storie tese. Parliamo di telefonini in questo periodo, quando si parla di telefonini si parla tanto di sicurezza, quindi parliamo di sicurezza. Abbiamo in collegamento, come sempre, da un luogo sconosciuto del mondo, non è con me ma lo sento con me, da qualche parte c'è, eccolo Enrico Pagliarini, dove Ciao. Sei? Ma cosa fai? Buongiorno. Non sei Sono fisicamente in Italia. Sei in Italia? Somewhere okay. on Italy. Somewhere, Italy. Ok. Sì. Allora, di cosa parliamo, Enrico? Sicurezza, allora, in realtà, mi hai detto. Tu sì. hai rovinato l'inizio del no. nostro appuntamento. Perché? Perché? Sì, perché allora io avevo pensato di dire che oggi ci saremmo occupati di porte blindate, ma non chiavi, di telefonini, sistemi di allarme, cinture di sicurezza, ABS, sistemi di frenata d'emergenza, del casco. Cioè di tutti quegli strumenti che noi oggi consideriamo necessari per la nostra vita, perché sì. diamo per scontato che esistano, e che quando, che ne so, facciamo una casa nuova, oppure acquistiamo un'auto nuova, oppure andiamo in motorino, dobbiamo avere queste dotazioni di sicurezza. Nel mondo digitale non abbiamo questa attenzione, purtroppo, però dovremmo aggiungere alla lista anche tutte le accortezze, ma anche tutti gli strumenti, perché c'è tutto un aspetto comportamentale, ma anche di strumenti per la nostra vita digitale, così come appunto esiste l'allarme o la porta blindata, esiste il casco, dovremmo avere tutta una serie di cose di cui parleremo oggi. Oggi parleremo. Allora, raccontami un po', Enrico. Io sono pronta a blindare qualsiasi cosa. Già casa mia la chiamano Alcatraz. Allora, innanzitutto vi presento Alessio Pennasilico, che è un security evangelist, lavora per Obiettivo, che è una società che si occupa di sicurezza. Alessio, benvenuto. Buongiorno Alessio. Allora, Alessio Pennasilico, spesso ci parliamo di sicurezza, a volte fa anche corsi per i giornalisti per far capire quanto è importante la Vabbè, sicurezza. Un eroe, perché i giornalisti si sa che non sono proprio... E devo dire, lo fa assieme ai colleghi del CLUSIT. Il CLUSIT è l'Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica, esiste da tantissimi anni, fa un ottimo lavoro, un lavoro egregio e molto importante, e questa settimana ci ha dato alcuni dati, perché è stato presentato il rapporto. Non vogliamo annoiarvi con questo rapporto, però in estrema sintesi, in un minuto, Alessio, dici qualche cosa sta succedendo in base ai dati che avete raccolto in questo rapporto sulla sicurezza in Italia e nel mondo. Mi è piaciuta moltissimo la premessa che hai fatto, perché è compatibile con i dati che emergono, vale a dire che i rischi sono in costante aumento, e che se non ci difendiamo riporteremo senz'altro dei danni decisamente importanti. Veniamo attaccati per diverse ragioni e su molti fronti, quindi le percentuali con le quali non vi annoio comunque sono tutte a due cifre ed hanno tutti i fenomeni in crescita, quindi manifestano proprio questa necessità di doversi difendere tanto da parte delle aziende quanto da parte del privato cittadino, che è comunque nel mirino di molti di questi attacchi. Sono curiosa di sapere di che attacchi stiamo parlando, per chiarire agli ascoltatori a cosa bisogna stare attenti. Ma all'interno delle casistiche di attacco considerato ci sono tantissime di quelle truffe, alle quali tentativi di truffa ai quali siamo soggetti giornalmente, quindi dal phishing, quindi quando provano a rubarci le password del conto corrente, ai vari ransomware, quindi quelle cose che ci criptano l'hard disk e ci chiedono un riscatto per poter rientrare in possesso dei nostri dati, fino a cose che non ci colpiscono direttamente. Ho usato la mia carta di credito su un sito che poi viene violato e di conseguenza poi mi clonano la carta di credito. È comunque un evento che, certo, mi causa un danno. Certo. Sì, approfitto però per dire una cosa che è molto importante. Detto questo, non è che il mondo digitale sia pericoloso o comunque sia più pericoloso del mondo fisico. È una parte del mondo. E quindi, così come nel mondo reale ci sono i pericoli che ormai diamo per scontati, è un po' come oggi non facciamo più caso ad un incidente stradale, che a volte ha anche conseguenze purtroppo tragiche, ma ricordiamo che fa parte della nostra realtà. Invece magari uno gli clona la carta di credito e ci fa impressione, e non dovrebbe più essere così. Però, giusto per sfruttare quel tempo, il tempo che abbiamo a disposizione, chiediamo ad Alessio di darci qualche indicazione. Allora, vorrei subito fare una domanda, visto che io recentemente ho detto fate attenzione alle password, create la password con un po' di fantasia. Allora, Alessio, usare un software per raccogliere tutte le password che abbiamo, e ne abbiamo sempre di più, in un unico softwareino oppure in un'unica app che ce le gestisce tutte, è una soluzione comoda ed efficace e soprattutto sicura? No, comoda assolutamente sì. Sicura decisamente meno. Il problema è che queste applicazioni, se io prendo una di quelle infezioni sul mio computer, che poi si fanno una copia del contenuto di quel programmino, io in un colpo solo ho regalato... Gli abbiamo anche dato le chiavi di casa, in pratica. Bravissima. Tutte le mie password in un colpo solo. Ancor peggio se uso, come citavi, app o comunque cose che stanno là fuori, nel cloud o comunque su internet, perché lì, oltre alla minaccia del criminale, bisogna sempre anche pensare a chi le sto dando, chi è che gestisce quel servizio, perché di fatto gli sto dando le mie password come do le chiavi alla signora delle pulizie. In quella presto attenzione, in questi servizi molta meno. Come diciamo sempre noi, cloud significa computer di qualcun altro, esattamente, in ogni caso. Sì, sì, anche se purtroppo per fortuna, dipende dai punti di vista, è una parte della realtà. Ci sono tantissime cose molto belle, comode del cloud, certo. Però dobbiamo essere anche consapevoli di questo. Beh, allora Alessio, scusa, invece di usare quindi questi softwareini, che cosa devo fare? Ah, io il consiglio che do spessissimo è di smetterla di ascoltare noi informatici che diciamo quelle cose noiose, 8 caratteri, maiuscole, minuscole, cambiale ogni 15 giorni. Tutto vero, non è che sia falso, però inapplicabile. Facciamo delle cose che si possano fare davvero. Io uno dei consigli che mi trovo a dare molto spesso è: chi da bambino ha imparato le poesie, chi da più grande ha imparato i testi delle canzoni, prendiamo con una certa frequenza, ogni 2 mesi, ogni 3 mesi, ogni 6, una cosa che ci ricordiamo in memoria. Usiamo un metodo standard del tipo: la prima riga è la password di Facebook, la seconda di Twitter e la terza di Gmail, e ogni 6 mesi lo cambio. Quindi questo mese scelgo Alba Chiara di Vasco Rossi e il mese prossimo sceglierò 10 agosto del Pascoli. In questo modo farò una password molto lunga, quindi difficile da calcolare per un computer, perché respiri piano per non far rumore, messo con tutte le maiuscole e tutti gli spazi, è molto più difficile da calcolare di una password di 8 caratteri, e contemporaneamente però è una cosa molto facile per me da ricordare, mentre per il computer resta un insieme di lettere e numeri strane che non conosce. Bello, infatti ci dicevano da piccoli che imparare le poesie era utile, abbiamo scoperto finalmente perché. Ecco, un consiglio che darei io è: non usate Alba Chiara. Esatto, adesso respiri piano, ma questa è andata. questa ormai l'abbiamo consumata. Questa può essere la verità, una... La verità è no Odissea, no Iliade e no Divina Commedia. Corano e Bibbia, perché quelle sono evidentemente usatissime. Alba Chiara per fortuna non fa ancora parte dei file diffusi su internet. Ecco. Ma senti Alessio, ma vengono poi utilizzate? Perché quando noi, che a noi piace guardare le statistiche, le ricerche, voi fate questi rapporti molto lunghi, complicati, e spesso ci sono dei risultati di password utilizzate che vengono scoperte quando ci sono le violazioni, e poi si scopre che le password più utilizzate sono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ma c'è la mia valigetta. Ecco, ma c'è una... diciamo, stiamo crescendo culturalmente da questo punto di vista, o stiamo ancora parlando di pochi che scrivono magari anche l'inizio della poesia? Mi stai chiedendo, se mi fai una domanda su base statistica, direi che siamo fermi al medioevo dell'informatica. ogni volta che violano qualche sito e rubano centinaia di password, quando queste password finiscono online e possono essere analizzate, davvero la situazione è quella che descrivi. Le password sono 1234, pace e amore, Pippo e Pluto, veramente, admin, sì. Cioè delle password è una delle password più diffuse. Sì. Effettivamente te la ricordi, ma non è proprio... Certo, questo è importante, però noi svolgiamo un'azione educativa per... Ma la cosa più brutta che può succedere è che ti rubino dei soldi, giusto? In realtà, pensa a te, la cosa che mi preoccupa di meno, nel senso che comunque i consorzi interbancari tra assicurazioni, individuazione delle frodi sono piuttosto efficienti, mi preoccupa molto di più che qualcuno, anziché pagare qualcosa a nome mio, compri qualcosa a nome mio e non lo paghi, perché se fa questa cosa magari io finisco in un elenco di protestati. Accidenti. E quando l'anno prossimo vado a chiedere il finanziamento per l'automobile mi dicono di no. Infatti concordo perfettamente con quello che dicevi inizialmente, quel che succede su internet ha delle conseguenze nella realtà, non esiste un mondo digitale, è un pezzo del mondo reale. Sì, domanda sì, sì. Banale, prima di dare la linea al traffico, io sento spesso dire da chi mi contesta il fatto che uso molto la carta di credito online, è pericoloso, meglio usare le prepagate per stare più tranquilli. Io adesso do la linea al traffico, poi chiedo a voi cosa ne pensate, tra qualche istante. Il sabato del villaggio. C'è Ilaria che dice: ma le password devono avere una maiuscola, un numero, un carattere speciale? Alba Chiara non serve. E ci mettiamo una maiuscola, un numero, un carattere speciale a respiri piano per far rumore, che non dobbiamo usare dopo questa puntata per oggi. La domanda che avevo fatto a entrambi: cosa ne pensate, Enrico? Inizio Alessio? Inizio io. Allora, io non ho mai avuto un problema e, come diceva prima Alessio, i sistemi interbancari sono ormai attrezzati e se subiamo nel 99% dei casi, se subiamo una truffa e c'è un problema, veniamo rimborsati. Io tutti i mesi spendo almeno il 50% delle mie spese sono fatte con carta di credito tradizionale, non prepagata. Figuriamoci se devo perdere tempo a ricaricare. Sì, no, io mi dimenticherei, no. Sicuramente. Alessio, sei d'accordo? Non solo sono d'accordo con Enrico, ma chi mi dice oddio, ma non ti clonano la carta, io mediamente rispondo: ma scusa, tu quante volte vai al ristorante della carta di credito al cameriere per andare a pagare perdendola di vista per una decina di minuti? È più pericoloso quello, a mio parere, che non usare la carta online. È la stessa risposta che do io, no, pensa un po'. Salutiamo tutti i camerieri, non è una mancanza di fiducia, è un esempio. Certo. Ecco. Però scusate, ma è molto, potrei continuare per un quarto d'ora, più pericoloso avere i soldi in contanti nel portafogli, ma non c'è dubbio, ma stiamo scherzando. Vabbè, Alessio, ti torniamo ad invitare. Sì, abbiamo un sacco di cose da chiederti, ti chiamiamo ancora, possiamo? Quando volete, sono a vostra disposizione. Grazie mille per la chiamata di oggi. Grazie ad Alessio Pennasilico. Ciao. Enrico, invece tu l'app della settimana ce l'hai? Sì, prima volevo dire che uno dei miei sogni è diventare evangelist di qualcosa. Quindi invidio che Alessio Pennasilico, così come altre persone nel mondo della tecnologia, si chiama Security Evangelist. Dai, ti facciamo fare un biglietto da visita a Radio 24, Radio Evangelist. Radio, esatto, Digital Radio Evangelist. Yes. Dunque, voi oggi di che cosa state parlando? Vediamo comicità, divertimento, umorismo, ci stanno un po' tenendo compagnia come filo conduttore, abbiamo riso molto. Allora, apro l'App Store dove avevo fatto una ricerca, ho fatto anche una prova. Allora, mi hanno segnalato, vado sulla fiducia di chi mi ha segnalato, 9gag. Ah, io la uso sempre. Volevo dire volevo dare anche due suggerimenti di cose, però non hanno una. Ti stiamo perdendo, Enrico, sentiamo se ci sei. No, ecco, ci no, sei, mi ci sentite, sei. Mi sen- No, dicevo, faccio due segnalazioni molto veloci, sì, di due siti sostanzialmente, chiamiamoli servizi, anche sono i servizi per farti ridere, sono molto noti, però non so se tutti conoscono, sia Lercio che Spinoza. Ah, beh sì, ecco. Fatemi salutare anche Stefano di Spinoza, al quale voglio molto bene, e Lercio però... è straordinario. Sì. E quindi può essere un, insomma, un momento di pausa, uno si va a vedere magari un titolo di Lercio. Uno dei più divertenti è di qualche settimana fa, dove c'era scritto che stavano per terminare le code al padiglione del Giappone ad Expo. Sì, devo dire anche bello quando ci sono le notizie che sono vere ma talmente assurde che uno commenta e non è Lercio. Ah, ma non è Lercio. Esatto, allora Enrico, l'appuntamento invece con 2024 con il podcast? In podcast abbiamo parlato di due o tre cose molto affascinanti. Pensa di trading automatico. Non so quanti di voi sanno che il 66% di tutto quello che accade nei mercati finanziari viene fatto da software automatici, da robot, da intelligenza artificiale. E che è una cosa molto, molto. Poi abbiamo fatto un bel approfondimento sulla sharing economy, che è un mondo all'interno del quale molti vivono, guadagnano o spendono, e quindi abbiamo visto che c'è una proposta di legge, abbiamo dibattuto un po' su questo. E poi il trovate podcast, tutto in ecco. podcast. Sì, tutto in podcast, radio24.it, oppure vi scaricate una delle tante app per la gestione del podcast. Devo dire che sto facendo una classifica, anzi ne approfitto. Scriveteci e diteci che cosa utilizzate per ascoltare i podcast di Radio 24 oppure di altre radio. Molti mi segnalano Podcast Addict. Ah, allora provo a usarlo anch'io. Anch'io. Intanto, vabbè, stanno arrivando molti messaggi. Se si usa un software libero per criptare, ad esempio GPG, il proprio file della password, si può stare abbastanza tranquilli. Insomma, è un argomento, grazie a @trent42 che ha scritto su Twitter. È un argomento sul quale arrivano moltissime sollecitazioni. Dobbiamo tornarci effettivamente, Enrico. Molto bene, buon pomeriggio a tutti, ciao. Ti lascio con questa perla di Lercio. Ultim'ora Yahoo cerca possibili acquirenti su Google. È bellissima. È bella, bella, sì. Parliamo di cinema. Camion, sguscia via, salta, corri. Per 5 anni lei ha reso la vita in quella piccola stanza, quella prigione, più confortevole e normale che ha potuto. Lei ha scelto di dire a Jack che la stanza era tutto il mondo e che non esisteva nient'altro. Siamo su un altro pianeta. È lo stesso, ma in un posto diverso. No matter how sweet the song. Sono nel mondo da 37 ore. Lui ci troverà. No, lui non ci troverà mai. Abbiamo iniziato questa settimana con la notte degli Oscar. Tanti film premiati, tanti Oscar attesi, qualcuno a sorpresa, tanti film che abbiamo già visto e qualcuno invece che è uscito proprio in questi giorni. Mi riferisco ad esempio a questo Room. Varrà la pena andarlo a vedere? Beh, lo chiediamo come al solito al nostro super esperto Franco D'Assisti. Ciao Franco. Ciao Marta. Sì, un film veramente straordinario, questo di Lenny Abramson, che è un regista che sta veramente crescendo con una cifra che è diventata quella dell'originalità. Ebbene, la cifra dell'originalità non si spegne certo in questo Room, che si svolge tutto in una stanza, quella dove vivono un bambino di 5 anni, Jack, e la mamma, detta semplicemente Ma, che è la Brie Larson, vincitrice dell'Oscar come miglior attrice protagonista, Oscar meritatissimo. I due sono lì, la mamma sa perché, la mamma è stata rapita e messa lì dal suo aguzzino che settimanalmente va, abusa di lei, le porta qualcosa da mangiare e tornerà la settimana prossima, e dal bambino che è nato da questo rapporto, bambino che invece viene coperto, curato dalla madre, che gli fa credere che questa stanza sia il mondo e che tutto quello che vede in televisione o fuori invece sia un altro pianeta. È un film davvero toccante, ma anche con tanti snodi narrativi che noi ovviamente non vi diciamo per non rovinare la suspense, che è molto presente anche in questi pochi metri quadri di questa sorta di capanna. Quindi davvero da non perdere questo Room. Franco, hai parlato di suspense, per gli appassionati di suspense ovviamente allora consigliato Room, ma consigliamo anche questo Regali da uno sconosciuto? Sì Marta, assolutamente, lo consigliamo perché è un bel thriller classico, solido, con una sceneggiatura orologeria come quelli che si facevano una volta, che ti fa sobbalzare quel bel paio di volte dalla sedia. È la storia di una coppia appunto che cambia città, va a vivere, forse si lascia qualcosa alle spalle che scopriremo, va a vivere in una casa bellissima, è una coppia di successo, soprattutto soprattutto lui, un manager rampante, va a vivere in questa bellissima casa fatta praticamente di pareti di vetro su tutti e quattro i lati, una casa molto esposta, perfetta per un film, per un thriller, e appena arrivati in questa nuova città trovano questo ex compagno di scuola di lui, del protagonista maschile Simon. Si capisce che fra i due qualcosa tanti anni fa non aveva funzionato nel modo giusto, piano piano scopriremo perché, ma lo scopriremo anche proprio a suon di sobbalzi. È un periodo molto bello per le commedie, ne parleremo anche tra poco per parlare di un film che sta quasi per uscire, Forever Young. Vi anticipo delle interviste molto molto carine dopo il giornale radio delle 16, ma è anche un periodo in cui escono tanti film per bambini e per ragazzi. Cosa c'è questa settimana, Franco? Beh, c'è Pedro Galletto Coraggioso, un film totalmente improbabile, messicano, un film d'animazione, in computer animation. Perché dico assolutamente improbabile? Perché è un mondo popolato da galli e da uova parlanti con i capelli. Quando l'ho raccontato a casa mi hanno preso per matto. Allora, c'è la storia di questo galletto, che è poco più che un polletto in questo momento, ma che deve superare la linea d'ombra, diciamo così. Fin qui niente di nuovo, insomma, da Nemo a Chicken Little. Insomma, l'animazione degli ultimi 20 anni è fatta di queste storie di entrata nell'età, diciamo, matura o quantomeno post-adolescenziale. Lo dovrà fare però combattendo su un ring, perché l'ambito del combattimento è quello dei, appunto, dei combattimenti fra galli, che in questo caso sembrano pugili, hanno i guantoni, si chiamano Sylvester Pollone, eccetera eccetera. Quindi scimmiottano sicuramente Rocky e compagnia. Lo sfondo è comunque uno sfondo sociale, perché questo servirà a salvare la fattoria dalla bancarotta, la fattoria dove Pedro vive con i suoi genitori e con i suoi amici. Ed è un film originale, divertente, personaggi che fanno sorridere, direi che per i bambini è l'ideale. Beh, allora Franco, devo dirti che purtroppo questa settimana non ascolterò La Rosa Purpurea, perché subito dopo la trasmissione correrò al cinema a vedere Pedro Galletto Coraggioso, ma nella Rosa Purpurea oggi dopo il GR delle 18 cosa avrai? Beh, spero che invece tutti gli altri l'ascoltino alle 18, perché abbiamo anche tanto altro cinema e tante interviste. Parleremo di Suffragette, avremo un'intervista con la regista, giocheremo come sempre insieme, e parleremo di un paio di iniziative importanti, Cartoonix a Milano e Bergamo Film Meeting, appunto nella città orobica, in cui c'è tanto cinema da vedere, per cui vi aspetto alle 18. Grazie Franco, alla prossima settimana, al prossimo sabato. Ciao Marta, ci sentiamo la prossima settimana. Amore. Amore. Amore. Amore. Amore. Amore. In quanti modi possiamo dire la stessa cosa? E cosa succede quando una parola assume un significato diverso da quello che volevamo? Dipende tutto dalla nostra voce. Voice Anatomy, un programma di Pino Insegno, io, in onda tutte le domeniche alle 14.30 qui su Radio 24. Ah, dimenticavo, lasciate un messaggio alla nostra voice box 828 12 12. Potreste scoprire di avere un futuro in uno dei nostri mondi. Ascoltaci anche in digitale, sul DAB. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Il sabato del villaggio. E rieccoci insieme con il sabato pomeriggio di Radio 24. I numeri per tenervi in contatto con noi: il 349-238-6666, che va bene per gli sms e per i whatsapp, il mio account di Twitter che è @MartaCagnola, il nostro hashtag di Twitter che è @CancellettoISDV. Ma cosa succederà nella seconda ora del sabato del villaggio? Beh, una seconda ora in cui parleremo ancora tanto di comicità. Ci sarà uno dei miei preferiti, Saverio Raimondo, il re della stand-up comedy, che torna in TV anche perché è il conduttore del telegiornale più vero d'Italia. Poi consigli dei libri da ridere, ma non solo, nello spazio di Alessandra Tedesco. Poi ovviamente avremo anche il nostro spazio dei consumi. Ma prima di tutto, beh, questo è un grande momento per le commedie. Allora, dopo il nostro approfondimento sui film in sala con Franco D'Assisi, torniamo al cinema. Ma che stai dicendo? Era dentrissimo là. Amore, l'hai vista pure te? Sì, però andiamo, la fate dopo la rivincita. Ma quale rivincita? Io non la voglio la rivincita con questo ladro. Ecco, attento come parli, perché io sono avvocato, ti posso denunciare per calunnia. Ma ricordati, come diceva Shah Shapiro, bisogna saper perdere. Certo, certo, ma non si può neanche sempre vincere, capito? Te sei portato la clac, l'arbitro l'hai tirato fuori di galera, hai rubato tutta la partita, ammettilo. Ammettilo, Franco, ammettilo. Ammettilo. Oh. Papà! Papà! Let's dance in style, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the skies. Hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young or let us live forever. We don't have the power, but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. The music's for the sad man. Can you imagine when this race is won? Beh, avete riconosciuto sicuramente la canzone, non solo se avete più di 35-40 anni, questa Forever Young, perché è stata rifatta in un sacco di modi diversi, da un sacco di artisti diversi. Forever Young è il titolo di questa canzone, ma anche il titolo di una commedia che a me è divertito molto. Io comincio a consigliarvela, anche se esce il 10 marzo. Comincio a consigliarvela, un film di Fausto Brizzi, gentile, garbato. Ma chi sono i Forever Young? I Forever Young sono i 50, 60, 70 anni di oggi, che sono sempre giovani, cioè non invecchia più nessuno. Allora, nel film ci sono, beh, c'è Teo Teocoli, che è l'avvocato Franco, c'è suo genero Lorenzo, Stefano Fresi, e poi c'è Angela, che è una bella estetista, che è Sabrina Ferilli, con una passione per ragazzi molto giovani, lo stesso la sua amica interpretata dalla splendida Luisa Ranieri, Sonia, e poi c'è un DJ di mezza età che perde il lavoro. Insomma, ci sono tante cose carine. C'è anche un ragazzo molto molto giovane, che è uno degli youtuber più famosi di tutti, che è Francesco Sole. C'è una delle protagoniste, che è Lorenza Indovina. Beh, insomma, è un bel momento per le commedie, e l'abbiamo chiesto proprio a Fausto Brizzi, a Lorenza Indovina e a Francesco Sole. Eccoli qua. Beh, c'è un'onda assolutamente positiva, cioè, quindi grazie a Checco, grazie a Paolo Genovese, ma grazie anche a Mainetti, insomma, che Gigorobò è un buon film. E c'è un'aria positiva intorno al cinema italiano, e quindi noi ci siamo da giovedì. E si può ancora far ridere, che è una cosa importante. Si può ancora far ridere su cose serie. I film di quest'anno che a me hanno fatto più ridere parlavano tutti di cose serie. Ti sei guardato in giro? Ti sei guardato in giro e ti sei guardato in giro e forse ti sei guardato anche un po' addosso, perché anche la nostra generazione ha le sue colpe. Che cosa hai visto? Che cosa ti ha scatenato l'idea, la storia, l'ispirazione? Ho visto che c'era un argomento e c'era un pubblico, perché siamo circondati da finti giovani. E prima che tu arrivassi stavamo discutendo con Francesco Sole, che aveva appena fatto che questa... Che è il giovane vero. Che è il giovane vero, che ha fatto un'affermazione un po' fortina, cioè che gli One Direction per questa generazione sono come i Beatles per quelli degli anni 60. Spengo il registratore e me ne vado. Certo, ma però questo è stato il leitmotiv di tutto il film, no? Questo giovani contro, contro finti giovani, cioè canzoni di una volta contro le canzoni di oggi, miti di una volta contro i miti di oggi. Il gioco del film è quello, mettere a confronto le generazioni, e in questo caso delle generazioni che pensano che gli One Direction sono importanti nella storia della musica. Beh, io ho paura dei Forever Young, cioè nel senso che nel film di Fausto si vede proprio questo contrasto che c'è tra giovani e finti giovani, e io invito tutti i giovani a portare al cinema i genitori per prenderli in giro e per fargli appunto capire che magari a volte il cercare di utilizzare cose troppo distanti dalla propria generazione fa nascere una perdita di credibilità. Cioè, per esempio, io non voglio che mia madre mi aggiunga su Facebook, tutte queste cose io non le voglio. No, devono fare le tagliatelle ste mamme, sì, non ho capito. Io voglio la nonna che non faccia il menù vegano. Lui dice, ecco. Perché capito, mia mamma usa il cellulare, dico, perché poverina? No, ma non lo deve usare come me, no, lo può usare, ma non come me. Non come lui. No, un po' male. Selfie. La realtà è che ha confessato prima che lui rosica, cioè, perché quando lui va in discoteca e un Fausto Brizzi gli porta via la ragazza di 20 anni che lui magari aveva puntato, è lui rosica, quella è la verità. Sì, sì. E sempre i protagonisti di Forever Young, abbiamo detto che è nata una nuova coppia comica molto molto carina, quella di Teo Teocoli con il grandissimo Stefano Fresi, che adesso è uno degli attori più amati ormai delle nuove commedie. Appunto, un bel momento delle commedie, lo abbiamo commentato anche con loro. Caspita, c'è Zalone che ha fatto L'ira di Dio, altri film carini li ho visti, c'è questo Gig Robot, no? Sì. Stiamo parlando della concorrenza. Che non fa ridere, però è bellissimo. Non fa ridere, però c'ha dei momenti comici. Una bella idea. Devo dire che ci sono due o tre film che hanno svoltato come perfetti sconosciuti. Cioè hanno tolto quella commedia un po' di routine. Uno fa Superman in Italia, che già uno dice vabbè, che siamo gli americani. L'altro Zalone non fa niente di speciale, ma la sua forza, la novità, questo personaggio funziona. E cambia anche gli equilibri, perché prima si parlava solo romanesco, poi c'è stato il periodo dei milanesi, poi il periodo dei toscani, adesso la Puglia impera, perché come Zalone sta venendo fuori altri personaggi, e quindi si ride abbastanza, si potrebbe ridere un po' di più e impostare certi film meno esagitati, perché tu vedi i trailer, litigano sempre nei trailer. Sì, ma come stai? Forever Young si ride. Sì, come stai? Ma tu non mi devi dire come stai, perché io sto bene tutta la mattina, tu mi tratti male. Dico, caspita, questo film non lo vado a vedere, se mi desse a casa mia. Esatto, però se continuano a produrre questi film, deviano tutto il pubblico sul nostro. Quindi in un certo senso è bene che ci siano dei film dove non si ride, così chi vuole ridere viene da noi. Dal 10 marzo viene. Bene, dei film dove non si ride, partendo con l'idea di fare un film da ridere. Certo. Se tu fai una commedia seria, fai Shakespeare e vai in sala e ti metti a ridere, ti butto fuori a calci del sedere. Questo è vero, ma tu pensi che se volevano fare un film serio chiamavano Fresi Teocoli? No. Guarda che io sono un attore shakespeariano. No, io ho cominciato così. Io ho rinunciato alla danza e a Shakespeare. Beh, concedetemi un momento di autopromozione. L'intervista integrale a Stefano Fresi e a Teo Teocoli, che sono veramente irresistibili, domani mattina dopo il giornale radio delle 8 con 140 caratteri. Adesso è il momento della viabilità, ci ritroviamo ancora tra pochissimo col Sabato del Villaggio. Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it vi presenta il Sabato del Villaggio. E al nostro Sabato del Villaggio, adesso come sempre a quest'ora, il momento dei libri. Beh, questa musica ancora una volta ci riporta al passato, ci riporta al Nome della Rosa. L'avevamo ascoltata due settimane fa, il giorno in cui abbiamo dovuto annunciare con dolore la scomparsa di Umberto Eco, ma adesso torniamo a parlarne con Alessandra Tedesco. Buongiorno Alessandra. Buongiorno Marta, sì, torniamo a parlarne perché naturalmente è uno dei libri di cui si sta parlando tanto in questo momento, il libro uscito postumo, possiamo dire così, perché in previsione sarebbe stato pubblicato a maggio, invece la pubblicazione è stata anticipata appunto pochi giorni dopo la morte di Umberto Eco, e si intitola Papè Satana Leppe, pubblicato dalla nuova casa editrice La Nave di Teseo, che era stata appunto fondata dallo stesso Umberto Eco, da Elisabetta Sgarbi, da Mario Andreose, cioè tutte persone che avevano abbandonato la Bompiani per creare un nuovo, diciamo, polo editoriale, una piccola casa editrice più che altro. Che cos'è questo Papè Satana Leppe? Allora, diciamo subito che non è un romanzo, non è un saggio, non è un testo originale, è una raccolta delle bustine di Minerva, che sono poi la rubrica che dall'85 Umberto Eco teneva sull'Espresso. Certo. E sono rubriche che vanno dal 2000 al 2015. Umberto Eco, nella stessa introduzione di Papè Satan Aleppe, infatti, per esempio, racconta: Ho iniziato la rubrica La bustina di Minerva sull'Espresso nell'85, allungo ogni settimana, poi quindicinalmente. Come ricordavo all'inizio, le bustine di fiammiferi Minerva avevano all'interno due spazi bianchi su cui si potevano prendere appunti e pertanto intendevo quei miei interventi come brevi annotazioni e divagazioni su vari fatti che mi passavano per la testa. Quindi qualcuno pensa, ah, la bustina di Minerva, la certo, dea Minerva, certo. No, erano i fiammiferi, perché Umberto Eco aveva appunto la mania di prendere appunti, o comunque questo spazio bianco all'interno dei fiammiferi Minerva gli faceva venire in mente l'idea di prendere appunti sulle cose della vita e delle cose che vedeva intorno. E quindi questo Papè Satanalepe è una raccolta delle sue bustine fra il 2000 e il 2015 che sono, diciamo, legate da un aspetto, cioè la cosiddetta società liquida. Società liquida era un concetto elaborato da un sociologo, un filosofo polacco, Bauman, per descrivere proprio l'attualità, cioè quindi si parla di crollo delle ideologie, crollo dei partiti, c'è la crisi del concetto di comunità che quindi porta ad un individualismo esagerato, il consumismo sfrenato, insomma questi sono tutti temi su cui Umberto Eco si è, insomma, ha detto la sua in queste bustine di Minerva che sono raccolte in questo Papè Satanalepe. E c'è una curiosità sul titolo che lo stesso Umberto Eco spiega all'inizio nella prefazione del libro, perché lui dice, la citazione è evidentemente dantesca, no? Parliamo dell'inferno di Dante, ma come è noto, benché schiere di commentatori abbiano cercato di trovare un senso a questo verso, la maggior parte di essi ritiene che esso non abbia alcun significato preciso. Allora, perché chiamare un libro una raccolta di piccoli racconti con un titolo che non vuol dire nulla? Esattamente per questo. Lui diceva, sempre nella prefazione, ecco, dice, non è per colpa mia che questo libro non ha un senso, è per colpa della società, perché io sono costretto ad affrontare degli argomenti così assurdi, magari così disparati, che non hanno un legame l'uno con l'altro e che quindi, che fanno ripensare appunto alla società liquida di Bauman, e che quindi l'unico titolo che mi è venuto in mente è Papè Satanalepe, che ti ricorderai il liceo, immagino. Eh certo, Alessandra, libro ovviamente di cui si parla forse più di tutti in questo periodo inevitabilmente, però so che ci sono anche altri titoli sulla bocca di tutti di cui dover sapere per forza qualcosa in questo periodo. Guarda, non si può non sapere, mettiamo così, non possiamo non sapere. A nostra insaputa non può accadere nulla. No, ti parlo dell'ultimo romanzo di Clara Sanchez, che lo ripetiamo spesso, è la scrittrice spagnola più amata in Italia, insomma è l'autrice del best seller Il profumo delle foglie di limone. Certo. In Italia ha venduto 1,5 milioni di copie. Perché ripeto sempre queste cose? Perché ogni volta che Clara Sanchez pubblica un nuovo romanzo in Italia, che sono pubblicati da Garzanti, praticamente arriva sempre subito in classifica. Le lettrici italiane la amano molto. Quest'ultimo libro si intitola La meraviglia degli anni imperfetti. Clara Sanchez in realtà l'aveva scritto alcuni anni fa, però Garzanti l'ha pubblicato solo ora, quindi per i lettori italiani, diciamo, è un romanzo nuovo. Certo. Come protagonista c'è un ragazzino, un sedicenne, Fran, che ha un rapporto conflittuale con la madre, il padre non c'è mai a casa, insomma lui entra ed esce da casa quando vuole, diciamo così, e si innamora di un'altra famiglia, cioè come se volesse andare a vivere, sai, l'erba del vicino è sempre certo, più verde, no? Del suo amico Edoardo, si innamora virtualmente, invece si innamora veramente con passione della sorella di Edoardo, che si chiama Tania. Lui proprio vorrebbe entrare a far parte di questa famiglia e soprattutto vorrebbe entrare a far parte della vita di Tania, ma Tania si sposa con un altro e sì, purtroppo, insomma, non se lo fila proprio, e tra l'altro si sposa con un boss. E quindi qui inizia tutta anche una trama che ha a che fare con un mistero, perché Fran riceve una chiave da questo suo amico che però scompare, lui deve ricostruire la storia di che fine ha fatto l'amico, insomma vive la sua adolescenza fra una famiglia un po' disastrata e il coraggio di voler andare avanti, scoprire che cosa è successo all'amico, che cosa sta succedendo intorno a lui. E allora, quando ho incontrato Clara Sanchez, la cosa, diciamo, più naturale che mi è venuto da chiederle è che nei suoi libri ci sono sempre in genere personaggi anche giovani, ma comunque che devono superare degli ostacoli, certo, degli eterni adolescenti, libri di sentimenti naturalmente, e libri dove c'è sempre un mistero. Sentiamo perché. Sí, porque claro, la vita è misteriosa. Sì, beh, è proprio così. Del resto, la vita in quanto tale è un mistero, le persone costituiscono un mistero. Ovviamente non possiamo entrare nelle loro menti per sapere che cosa racchiudono, che cosa pensano, quali sono i loro sogni. Quindi la vita è interessante e attraente proprio per questo motivo, perché il mistero va scoperto poco a poco. In qualche modo, io credo che questo concetto sia ben rappresentato da un quadro di Velázquez, che non so quanti conosceranno, Las Meninas, dove, se fate mente locale, sullo sfondo c'è una porta socchiusa e sta a noi decidere se avvicinarci a quella porta, attraversarla, vedere cosa c'è dietro, oppure capire chi ci sta guardando da quella porta socchiusa. Io amo davvero mettere questa sensazione di necessità o voglia di scoprire un mistero in tutti i miei romanzi. Io penso che non ci siano vite più emozionanti di altre, dipende sempre da noi. O sea, todo depende de si queremos cruzar la puerta. Alessandra, a chi lo consigliamo questo ultimo libro di Clara Sánchez? Io lo consiglierei a donne soprattutto, ma anche a uomini che si sentono eterni adolescenti, bello, che comunque vogliono seguire le avventure di questo ragazzo innamorato non corrisposto, con problemi familiari, e che però veramente ce la mette tutta, mette un gran coraggio per cercare di risolvere il mistero che riguarda il suo amico e la donna di cui è innamorato, anche se non è ricambiato. E quindi torniamo a parlare di eterni adolescenti. Molto molto bene. Alessandra, invece, qualcosa sul tema che ci sta un po' accompagnando in questo Sabato del Villaggio? Abbiamo parlato tanto di comicità, di divertimento, di cose belle, ne parleremo ancora, eh? Vabbè, io ti vorrei dire sempre il libro comico che mi ha fatto ridere di più, ma quale? Siccome te lo ripeto sempre, quale dillo? Il più grande uomo scimmia del Pleistocene, pubblicato da Adelphi in edizione super economica, ormai, cioè, è un libro degli anni 60, credo, è il libro su cui ho ghignato di più. Io, con tutto Achille Campanile, con Tre uomini in barca anche. Ho riso tantissimo con Tre uomini in barca. Però, sì. Mica male, insomma. Però ti volevo segnalare, sì, a proposito di comicità, che esiste una casa editrice in Italia che è dedicata esclusivamente alla comicità. È una sai casa che forse la conosco? Sì, indovina di che paese è. La conosco perché è di Vimercate, come è me. È di Vimercate, vicino Milano, si chiama Sagoma Editore, è nata da alcuni anni, diciamo, sono un gruppo di persone che hanno deciso di dedicare appunto i loro soldi, il loro tempo, l'investimento eccetera, a pubblicare libri che hanno a che fare con la comicità. Per esempio, mi ha colpito questo Cuochi. Di cosa ridiamo quando ridiamo di Checco Zalone, scritto da Gianni Canova, che tu conosci benissimo. Certo, professore, perché spesso ospite anche al Sabato del Villaggio. Esattamente, un critico cinematografico. Ma sai perché mi ha colpito? Perché quando lui racconta all'inizio di questo libro, quando è andato a vedere, insomma, il film Quo Vado, mi ha colpito perché eravamo nello stesso posto, ma io non lo sapevo. No. Perché lui scrive: ho visto Quo Vado la sera del 2 gennaio 2016 in un cinemino di montagna, il Presolana di Dor, provincia di Bergamo, allo spettacolo delle 22:30. No, nevicava fitto, anch'io c'ero. Abbiamo fatto più di un'ora di coda in mezzo alla strada sotto la neve con altre 200-300 persone che aspettavano di entrare nel cinema. Lui è riuscito a entrare, io no, quindi io non l'ho visto il film alla fine. Però leggendo questa cosa mi sono ricordata proprio episodio mio personale. Beh, sì, stranissimo, nello stesso posto, mica è un cinema del centro di Milano. No, bello. Un posto, diremmo. Così salutiamo anche il professor Canova. E magari torneremo a parlare di questo libro che va alle radici della comicità di Checco Zalone, mi incuriosisce molto. Sì. Ancora consigli per quanto riguarda la comicità? Guarda, io ho chiesto un consiglio a uno scrittore, Federico Baccomo, perché tempo fa, autore di libri come Peep Show, oppure come Studio Illegale, certo, La gente certo. che sta bene, da cui erano stati tratti film con Fabio Volo oppure con Claudio Bisio. Perché diciamo lo scrittore che era nato come avvocato. Avvocato, che guardava, era un avvocato, certo. Aveva aperto il blog con lo pseudonimo Duchesna, raccontando segreti degli avvocati di un certo livello milanese. Perché ho chiesto consiglio a lui? Perché tempo fa ho ascoltato una sua lezione sulla comicità in letteratura, e allora ho detto: ricordami, dammi qualche punto di riferimento. Se io dovessi consigliare un italiano, per esempio, comico che fa veramente ridere, quale sarebbe? E lui mi ha detto, senza proprio batter ciglio, Walter Fontana l'ha definito il più grande battutista italiano. Ha scritto 4 romanzi, il primo, il famoso L'uomo di marketing e la variante limone, ed è definito da Bacco come un caposaldo della comicità italiana. Poi ha scritto Non ho problemi di comunicazione, che lui ha fatto ridere molto a Baccomo, dice il libro che più mi ha fatto ridere in vita mia. E l'ultimo si chiama Splendido visto da qui. Era stato tra l'altro un autore televisivo di alcuni personaggi famosi che erano stati portati in televisione da Mai dire gol, per esempio. Quindi insomma, autore televisivo, scrittore, sceneggiatore, umorista. Walter Fontana, se volete ridere, per esempio, Non ho problemi di comunicazione. Alessandra, però non abbiamo ancora dato l'appuntamento per il tuo cacciatore di libri. Gravissimo, se ve lo siete persi stamattina alle 6:30 perché stavate dormendo come me, allora potete recuperarlo stasera alle 22 con Clara Sanchez, ne parlavamo prima, quindi insomma l'intervista è integrale, e come sempre c'è il podcast. Grazie Alessandra, al prossimo sabato. Bacetti. Il sabato del villaggio. E come sempre al sabato del villaggio di Radio 24, musica, TV, serie TV, cinema, ma anche tecnologia, piaceri della vita e consumi. And the Oscar goes to Leonardo DiCaprio. This is the first Oscar and sixth nomination for Leonardo DiCaprio. Beh, il primo Oscar Leonardo DiCaprio, ci siamo tutti molto molto molto emozionati la scorsa settimana, all'inizio di questa settimana, nella notte degli Oscar, perché aspettavamo solo questo. Ma perché parliamo di Leonardo DiCaprio? Non lo so, lo chiediamo subito a Maria Luisa Pezzali. Ciao Maria Luisa. Ciao Marta, un saluto a tutti. Mi hai detto parliamo di Leonardo DiCaprio, perché? Sì, non volevo sottrarmi all'omaggio a DiCaprio, insomma. Beh, fresco di Oscar. Grandissimo momento. Ma soprattutto perché volevo raccontarti una storia sui consumi da cui poi ricaviamo insomma la tendenza, questo sono chiamata a fare qui. Però questa storia parla appunto di Leonardo DiCaprio. Sì. Geograficamente si muove tra Biella, Londra e il Portogallo. E poi parla di una felpa. Ok, gli ingredienti mi piacciono, non riesco a unire i puntini, quindi aspetto che tu mi racconti. Perché per unire tutti questi puntini c'è un giovane stilista inglese emergente che mi ha scritto per sapere se fossi interessata a raccontare appunto la sua storia. Bravissimo. Non sono la prima, ovviamente, non sono l'unica. Lo hanno già fatto, per intenderci, il Telegraph, il Guardian, il New York Times, BBC News. Beh, la lista. Fatto prima loro solo per una questione linguistica, sì, ovviamente. E geografica, perché lui è inglese. E la lista è veramente lunghissima. Io gli ho risposto, certo che sì, sono assolutamente interessata. Così ho scoperto che grazie a una campagna su Kickstarter e a un prodotto veramente semplicissimo, una felpa girocollo tinta unita in molti colori, Tom è passato da un prestito come una startup della moda di 9.000 sterline a un fatturato di 350.000, quindi una grandissima idea storia vincente. Di una successo. Felpa semplicissima. Una felpa semplicissima, tinta unita, girocollo. Che caratteristica ha questa felpa? Che è fatta in modo molto rigoroso e ha una garanzia di 30 anni. Infatti, quindi non è come quelle che tu butti in lavatrice una volta e ti ritrovi quella della Barbie. È una felpa di qualità. Sì, è garantita 30 anni. Infatti la campagna lanciata su Kickstarter si chiamava proprio così, la felpa che dura 30 anni. Con questa campagna Tom Cridland, questo è il nome del giovane stilista, ha spopolato e poi ha incontrato Leonardo DiCaprio, e da lì insomma è partito il suo successo. Molte celebrities indossano adesso non solo la felpa ma anche gli altri suoi capi, i pantaloni prima di tutto, quindi Daniel Craig, Hugh Grant, Ben Stiller, insomma sono solo... Si è fatto un bel giro di amici. Esatto, alcuni dei nomi delle foto che tra l'altro mi ha mandato Tom. E allora ascoltiamo subito l'intervista che ha realizzato per noi Adriano Palazzolo. I founded the brand Tom Cridland. Ho fondato il marchio Tom Cridland per creare pantaloni da uomo. Volevo da un lato rendere lo shopping più facile per gli uomini e dall'altro rendere un capo come i pantaloni più interessante, farli in diversi colori e con diversi materiali. Ho avuto l'occasione di creare dei pantaloni per Leonardo DiCaprio, cosa che per me è stata un grande onore.

che promuovono una moda sostenibile, e quindi, così come ha rotto le regole sul prodotto, vuole romperle nelle relazioni che, dice spesso, nel mondo della moda sono clientelari, sono propense ai favoritismi, eccetera. E quindi, insomma, c'è da dire che è molto bravo, perché speriamo che qualche giovane stilista italiano prenda esempio, perché esatto, non è male come si è mosso Tom. È l'ora, di solito a quest'ora ci colleghiamo al telefono con Cristina Lazzati, questa volta non ce l'abbiamo? Non ce l'abbiamo. Oddio, non c'è. Non ce l'abbiamo al telefono perché l'abbiamo in studio. Buonasera Cristina. Che scherzone abbiamo fatto. Cristina, allora, finalmente in studio dopo tutte queste puntate, le tue astuzie anticrisi. Cosa ci racconti questa settimana? Buonasera a tutti ed eccoci, è arrivato finalmente in Italia Retail Me Not. Ah, se, lo segno subito, Retail Me Not. Che io non conosco, quindi, allora, quindi lo scopriamo. Il claim è in tema, per cui benvenuti nel paradiso del risparmio. Retail Me Not c'è ovunque nel mondo, anzi in tantissimi paesi, è americano ed è il più grande marketplace di sconti e promozioni. Quindi qualsiasi sconto, promozione di negozi online voi stiate cercando, invece di girare 2000 piccoli siti oppure andare a vedere la piccola promozione fatta per due giorni, Retail Me Not lavora proprio sul fatto che le accumula tutte. Quindi basta andare a vedere la lista dei negozi, e sono già tantissimi perché parte proprio in questi giorni in Italia, e selezionare, c'è di tutto, da Adidas a Carrefour. Quindi parliamo veramente non di una segmentazione di tipo lusso piuttosto che consumer, ma piuttosto parliamo proprio di un accumulatore di... È gratuito per noi che accediamo e vogliamo lo sconto, chi paga sono appunto i vendors che vogliono presenziare lì dentro, quindi di fatto assorbe il costo di questo, di questi sconti il retailer che è presente. Quindi un aggregatore di sconti. Io sto già guardando, faccio sempre così, perché quando poi Cristina di solito al telefono non lo sa, mentre lei parla io già cerco. Allora ho aperto il sito, effettivamente vedo molte marche americane, perché da noi è appena arrivato, quindi Kohl's, Papa John's, Bath & Body Works, non solo cose online, perché vedo ad esempio Amazon, ma anche negozi fisici nei quali ci sono degli sconti. Allora, retailmenot.it, tu credo sia andato sul .com, sì, sì. E sta partendo proprio in questi giorni, per cui c'è, come dire, comunica un po' poco. Noi stiamo dando un po' questa notizia in prima, ma viene lanciato poi mercoledì della prossima settimana, quindi non ditelo a nessuno, ovviamente. No, ma perché sennò vi portano via gli sconti. La cosa carina, tra l'altro, è che oltre agli sconti appunto aggregati di questi negozi, c'è anche la possibilità, e questo in America ovviamente è molto più diffuso, ma lo sarà presto anche in Italia, di avere gli sconti che trovi solo su Retail Me Not, quindi gli sconti esclusivi. In alcuni casi si tratta proprio di sconti su delle merce, quindi, che ne so, i passeggini tutti al 30% da Carrefour, piuttosto che, speriamo, al 30%, magari il 5%, magari il 10%. Però su queste cifre può andare bene tutto. In altri casi una segnalazione che ti porta al sito online e quindi trovi lì poi lo sconto che puoi fare. In altri casi devi scaricarti il coupon e quindi utilizzarlo poi dove ti pare, cioè ovviamente nel negozio convenzionato, piuttosto che sempre sul sito online. Quindi diciamo che c'è una vastissima scelta. Io devo dire, sono andata a vedere il sito italiano dopo aver visto anche quello americano, cioè in Germania, ognuno, poi i francesi ovviamente gli hanno cambiato un po' il nome, ma questo si sa. Certo. E cioè veramente, cioè devi avere anche un po' le idee chiare di quello che ti piace, cioè non è che vai lì e hai una segnalazione di due o tre brand, hai un lungo elenco, e quindi a seconda di quello che vuoi comprare, diciamo che l'atteggiamento che io consiglierei a chiunque approccia è: voglio comprare delle cose, devo uscire, prima vado a vedere se ci sono degli sconti su quelle marche piuttosto che su quei negozi che voglio visitare, dopodiché mi scarico gli eventuali sconti e felicemente faccio il mio shopping. Oppure magari guardo regolarmente per vedere se c'è lo sconto su quel prodotto, su quel servizio che devo comprare da un po' di tempo. E tra l'altro Retail Me Not ti permette anche, iscrivendoti alla newsletter, di non dover guardare tu, ma ti comunica settimanalmente con la newsletter anche tutto quello che c'è di novità durante la settimana, quindi non devi neanche fare lo sforzo di ricordarti di andarlo a vedere. Mercoledì quindi, Cristina, io me lo segno mercoledì, vedo che c'è anche l'app, quindi speriamo che ci sia anche in Italia, la scarico, mi abbono alla newsletter e risparmio. Grazie Cristina per essere stata con noi, torna in studio, torna a trovarci. Senz'altro, dai. Senz'altro, grazie a tutti e buon pomeriggio. Maria Luisa, invece con te l'appuntamento per domani? Domenica, domani, come sempre, alle 22. Grazie Marta, ciao a tutti. Il sabato del villaggio. Ultimo spicchio del sabato del villaggio, prima di cambiarci d'abito e dare la linea al nostro RadioTube, ultimo spicchio nel quale voglio dare un'informazione di servizio per tutti i miei amici e per tutti i miei parenti. Da lunedì non chiamatemi, non mandatemi messaggi, non venitemi a citofonare dalle 23 in poi, perché io per qualche minuto non ci sarò. Io da lunedì al venerdì alle 23 dalla prossima settimana, da lunedì 7 marzo, non ci sono per nessuno. Mi chiudo in casa da sola sul divano davanti alla TV per guardare cosa? Ecco qua. È marzo, arriva la stagione del late night. Tutti i comici predatori si risvegliano. Il giovane Saverio sa che ha 15 minuti per procacciare il cibo per tutto il branco. Ferme! Una notizia! Sbraniamola! CCN, ai confini con l'attualità, la nuova stagione di Comedy Central News, dal 7 marzo, da lunedì a venerdì alle 23, in esclusiva su Comedy Central. Allora, io non posso non dare il benvenuto, anzi il bentornato al Sabato del Villaggio, in questo Sabato del Villaggio nel quale abbiamo parlato tanto di comicità, non posso non dare il benvenuto al mio preferito. Io lo amo di un amore proprio anche fisico, perché lui è il più bravo di tutti, non ce n'è come lui. Lo abbiamo al telefono. Buonasera, sì, ormai a quest'ora si può dire buonasera, Saverio Raimondo. Ciao Saverio. Buonasera, buonasera, eccolo. A voi. Però scusa, vorrei tanto sapere, tu prima ti sei raccomandata, mi raccomando, non mi telefonate, sì, alle, sì, 23, non mi, no, telefonate alle 23, ma niente, perché ti citofono alle 23, ti telefonano alle 23. Ma certo, un movimento. La vita notturna di Marta Cagnola, chi l'avrebbe un detto? Movimento, Saverio, non hai idea. Un movimento alle 23. Guarda, un'ora infatti, topica. E certo, infatti in quel movimento mi inserisco io da lunedì con il mio CCN e torna nel suo orario naturale, che è appunto quello delle 23, perché l'anno scorso andavamo la prima stagione non dalle 20:50, però siamo sempre stati un night show nello spirito e quindi giustamente quest'anno ci siamo guadagnati, siamo stati promossi al suo orario naturale, un orario un po' più notturno per certi aspetti, che è quello delle 23. Perfetto, è perfetto, perché già te l'avevo detto l'anno scorso, tu sei il vero uomo del late show. Allora, in questo periodo sono un po' gelosa perché tutti hanno scoperto Saverio Raimondo e tutti parlano, eccola, di Saverio. Sì, sono un po' gelosa. C'è stata, lo scorso fine settimana, ce l'ho qua davanti, una paginona grande del foglio di Marianna Rizzini che ti ha incontrato e ti ha chiamato il comico apolitico, voglio far ridere ma non voglio cambiare il mondo. Venerdì ha parlato di te, ha scritto di te Antonio Di Pollina, che tra l'altro ritroveremo dopo in RadioTube, e ha scritto proprio a proposito del late show. Allora, Saverio Raimondo, comico con ambizioni da stand up all'americana, ma conscio di trovarsi in uno strano paese, quello nel quale tutti sostengono che non se ne può più di chi vuole rifare Letterman senza che si ricordi nemmeno un tentativo serio di rifarlo davvero. Domanda: vero, rifarai Letterman? Cercherai? Guarda, no, purtroppo non sono del Letterman, punto uno, e purtroppo, o per fortuna, per certi aspetti sono soltanto Saverio Raimondo e poi di nuovo in Italia, dove appunto sono consapevole che mentre, voglio dire, per David Letterman fare il late show era fare qualcosa che era inserito in una tradizione di spettacolo serale, comico, ironico, satirico addirittura in certe occasioni, da noi invece il night show è ancora un corpo estraneo. Che però effettivamente mi trovo d'accordo con quello che ha scritto Antonio Di Pollina, tutti a dire basta rifare Letterman in Italia, peccato che effettivamente non ci abbia mai provato nessuno, perché da noi quel tipo di comicità alla Letterman non si è mai vista. Ci sono dei nuovi comici, dei comici di nuova generazione, cui probabilmente, ecco, mi sento di far parte, che guardano più alla comicità internazionale che a quella italiana e che magari potrebbero cominciare a importare quel tipo di genere, però in effetti in Italia non si è mai visto, no, anche perché nel mio programma in Italia forse dobbiamo ancora spiegare cos'è la stand-up comedy, cioè c'è il monologo comico ma lo confondiamo con il cabaret, lo confondiamo con tante cose, non abbiamo ancora interiorizzato quest'arte. Ma sì, lo stand-up comedian è un comico che sale sul palco con il suo nome e il suo cognome, senza maschere, senza personaggi, e parla di qualunque cosa, veramente di qualunque argomento, lo fa con estrema libertà e lo fa mettendo in gioco se stesso, la sua vita, i suoi sentimenti, le sue emozioni, quello che pensa. È un'esibizione molto molto unplugged per certi aspetti, è una comicità d'ascolto in qualche modo, non è animazione da villaggio, certo. È una comicità che chiede al pubblico di ascoltare e di ridere e applaudire, lì dove fa ridere e applaudire, è una comicità molto espressiva, molto libera, che può passare a dire cose molto leggere, anche ben più scabrosi, perché d'altronde, come dicono gli americani, it's only a joke, è solo una battuta, quindi certo, sempre è soltanto battuta. Comicità, esatto. Però dimmi Saverio. Rispetto alla tradizione del late show, del night show satirico all'americana, il mio CCN guarda ovviamente a quei programmi, però è dichiaratamente un gioco su quei programmi, non vuole ancora essere l'esatta imitazione o esportazione di quel modello lì, vuole essere un gioco molto autoironico sul fare il night show satirico all'americana. Uno stand-up comedian non smette mai di farlo dal vivo, noi li vediamo appunto nei film e nei telefilm americani, il comico che da solo sale sul palco del locale, si fa anche in Italia adesso, tu continui a esibirti dal vivo? Assolutamente sì, vengo da una serata giovedì scorso a Roma al Comedy Central Cocktail Club dell'Oppio Caffè, che è questo comedy club che ormai animo insieme a tutti gli altri stand-up comedian italiani da 5 anni a questa parte. Venerdì prossimo sono al Teatro Puccini di Firenze, quindi per chi vuole assistere a uno spettacolo live, addirittura in una cornice teatrale, perché sono solito più esibirmi nei club, ma ogni tanto faccio qualche piccola trasgressione teatrale, ma lo spettacolo è sempre lui, stand-up comedy nuda e cruda. E sì, purtroppo lo stand-up comedian è comico sempre, nel senso che quello che porti sul palco è la tua vita, è il tuo punto di vista, è quello che ti è successo, è quello che è successo a chi è vicino a te, e quindi inevitabilmente quando scendi dal palco non stacchi, ecco, l'occhio, il terzo occhio comico resta sempre aperto, resta sempre acceso, registra, valuta e poi dopo porta sul palco quello che ti ha raccolto. È un po' il filtro che usi per vedere la vita, posso immaginare, perché è un po'. Sì, uso il terzo occhio comico, in realtà la vita è molto ridicola, anche nella sua tragicità, di solito è molto ridicola, siamo tutti molto, molto buffi, io poi non ne parliamo, sono buffissimo, sentite che voce, sembra il verso di un delfino, quindi voglio dire, sono no, però posso dire una cosa, questa cosa che ha scritto anche Marianna Rizzini, che tutti ti dicono che assomiglia a David Parenzo, no! Ma non vi somigliate per niente. No, ma infatti assomiglia a un delfino, è diverso. Con la differenza che il delfino è un animale intelligente. Io no, neanche quello. Io adoro Saverio Raimondo. Saverio, io la domanda te la faccio. Ma tu come l'hai sopportato quest'anno non avere il tuo dopo festival? Perché io malissimo. Io proprio l'ho accusata tanto. Proprio ho sofferto. Poi non volevo essere cattiva, non volevo infierire, non volevo, però che dolore. Brava. Allora no, intanto un saluto a te, a tutti coloro che su Twitter in quei giorni sì. mi hanno rimpianto, evocato e così tanto calore, grazie mille. Allora intanto posso dirti che il dopo festival di quest'anno, come ho già detto ad altre fonti, non l'ho visto ma mi è piaciuto, quindi risolviamo la così questione così fa. Poi ti dico anche che vi assicuro, la mia intenzione quest'anno non era quella di rifare il dopo festival di Sanremo, tanto meno in televisione, perché l'anno scorso quando feci il dopo festival, che era solo sul web, ricordo, lo rivendicai come qualcosa che volevo, cioè volevo che quel dopo festival fosse fatto sul web e rimanesse sul web, di modo che eravamo più liberi di usare un linguaggio più moderno, più contemporaneo, senza le maglie censorie molto antiquate, ma ancora esistenti, che ci sono in televisione. Quello che ho provato a proporre in Rai, perché poi il problema in Rai è che non sai mai a con chi devi parlare, è vero. Apposta, no? Perché in questo modo le idee muoiono nei corridoi. Esatto, quello che ho provato a far capire, siamo riusciti quasi inconsapevolmente, io e il gruppo che lavora del dopo festival, Sabrina Nobile, Giorgio Cappozzo, Stefano Santucci, siamo riusciti a fare il primo web show della Rai, il primo, e che ha funzionato tantissimo proprio lì sul web, che non è in territorio dove di solito la Rai è molto forte. Allora quello che abbiamo cercato, ripeto, di far sapere in Rai, forse non riuscendoci, è che noi eravamo disponibili eventualmente a sviluppare un web show per la Rai, appunto un night show eventualmente, perché andare solo sul web per la Rai indipendentemente da Sanremo, certo. Che poi era quello che su Twitter ci chiedevano all'indomani dell'ultima puntata del dopo festival, tutti ci chiedevano perché non andate avanti, fate il dopo tutto, era nato spontaneamente questo hashtag dopo tutto, un titolo perfetto per un weekly eventualmente, no? Un settimanale da fare sul web per la Rai. Abbiamo provato a proporlo ma non c'erano orecchie e quindi è come il mio citofono nulla. Dopo le 23 da lunedì prossimo Esattamente, resta questo rimpianto, nel senso che immagino che per la Rai in primis, più che per me, che come vedete comunque fortunatamente sto lavorando a questo bellissimo programma per CCN, per questo bellissimo canale che è Comedy Central, però è in primis un'occasione persa per la Rai, che poteva eventualmente sviluppare qualcosa di nuovo e di forte per l'azienda, ma non l'ha fatto. Sono d'accordo e intanto ti aspettiamo con CCN. Voglio solo segnalare anche il pezzo che ha scritto Francesco Pacifico su il magazine del Sole 24 Ore, che ha detto che a un certo punto scrive: Raimondo esce dal camerino nel suo solito completo da inviato di 90° minuto fine anni 80 e questa cosa non so come mai, però è bellissima. Saverio, sono molto contenta di averti avuto anche in questo Sabato del Villaggio su Comedy Central, lo dico bene, canale 124 di Sky, da lunedì 7 marzo confermo, alle 23, poi anche il weekend alle 20:30 ci sarà un CCN sandwich. Tutti i giorni alle 23, dal lunedì al venerdì le puntate di CCN e nel weekend il best of, esattamente. Che meraviglia, torna a trovarci Saverio, come sono contenta quando di aver avuto volete. Saverio Raimondo con noi. Grazie Saverio, a lunedì con CCN, a presto. Grazie, a lunedì con CCN, ciao. Che bello, che bravo, è fantastico, io Saverio Raimondo lo adoro. Abbiamo riso tanto in queste due ore del Sabato del Villaggio, ma continueremo, ci saranno un sacco di ospiti nella terza ora. Adesso vado anche a cambiarmi, anzi adesso vi twitto che cosa mi sto per mettere. Vado a cambiarmi perché tra poco apriamo il capitolo di RadioTube, tra poco dopo il GR delle 17.